America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Amerigo Vespucci, ve ne ho parlato qualche tempo fa in una puntata, quest'anno è il 500° anniversario della sua morte, di questo straordinario navigatore che, secondo la leggenda, ha dato il nome alle Americhe. C'è qualcuno che dice che poi non è vero, ma comunque a noi piace credere che le Americhe si chiamano così proprio in onore di Amerigo. Amerigo che seguì le orme di Cristoforo Colombo, 1492, la data storica della scoperta dell'America. Ma è davvero andata così o forse c'è stato qualcuno che l'America l'ha scoperta prima? Una vecchia musica tradizionale delle isole Shetland, una musica che ho così trovato evocativa, di un libro che ci racconta che forse qualcuno l'America l'ha scoperta prima di Cristoforo Colombo, e guarda caso sono due italiani. Il libro è Irresistibile Nord di Andrea di Robilant e ricostruisce l'avventura di due fratelli veneziani che sono i mercanti Antonio e Niccolò Zen, che nel 1383, pensate, l'anno prossimo nel 2013 si dovrebbero celebrare i 630 anni del viaggio di questi due fratelli, che si imbarcarono verso l'estremo nord-ovest, attraversarono il nord Atlantico per arrivare poi sulle coste nordamericane. Ecco, io ho con me ai microfoni di America 24 Andrea di Robilant, l'autore del libro. Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Mario. Il libro di Andrea, che è un libro storico, è anche un libro di viaggi. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, perché Andrea, tu sei andato a ripercorrere la strada, la navigazione di questi fratelli, giusto? Sì, in effetti mi è sembrato inevitabile. A un certo punto, dopo mesi passati negli archivi di Venezia, cercando di ricostruire questa storia scomparsa di questi due mercanti veneziani del 300 che poi viaggiarono nei mari del nord e poi si spinsero fino alle coste del Nord America. Mi sembrava che per mettere insieme tutti i pezzi molto complicati di questa storia fosse inevitabile che cercassi io stesso di andare, di seguire le loro tracce, di vedere le cose che avevano visto, di raccontare quello che avevano provato dal vivo, cioè non più dalle scartoffie degli archivi, ma impresa diretta. E tra l'altro, scusa Andrea, ma l'idea di questo libro viene da un altro viaggiatore, se non sbaglio, viene da un turista che a un certo punto arriva a Venezia un po' trafelato, è vero o no? In effetti è stata una combinazione abbastanza incredibile. Io ero nella biblioteca Marciana, stavo lavorando su un altro libro, e improvvisamente entra questo turista americano sbarcato da una di queste navi di crociera che stiamo cercando di non far più passare per il canale della Giudecca dopo la vicenda Schettino. Comunque entra nella biblioteca e si aggira con un foglietto di carta. Io mi alzo per aiutarlo perché lo vedevo in difficoltà, e su questo foglietto aveva scritto due nomi, Niccolò e Antonio Zen. A me questi nomi non mi dicevano nulla, e lui mi dice: sai, io sono qui a Venezia in pellegrinaggio perché nel paese da dove io vengo, nel Connecticut, sappiamo tutti che Niccolò e Antonio Zen hanno scoperto l'America nel 1383. Mi sembrava un po' una storia strampalata, se non che qualche giorno dopo passeggiavo per tutt'altra parte della città e passo accanto a un palazzo molto fatiscente sul quale c'era una lapide, e sulla lapide era scritto: qui vissero Niccolò e Antonio Zen, navigatori veneziani del 300 che attraversarono gli oceani, eccetera. E io rimasi un po' di stucco, mi sono anche chiesto: ma chi cavolo sono questi due navigatori di cui io non avevo mai sentito parlare? E il giorno dopo ho messo da parte i miei libri e le mie cose e mi sono messo a ricercare questa storia, devo dire, straordinaria. Straordinaria anche perché completamente dimenticata. Una storia dimenticata in molti suoi aspetti, non soltanto per i personaggi, ma anche perché mi sembra che abbiano avuto un ruolo fondamentale questi fratelli Zen nella storia della cartografia, o sbaglio? Il loro pronipote, Niccolò Zen il giovane, che poi mise insieme i loro racconti e i loro portolani e le loro carte, pubblicò questa carta da navigare che ebbe un impatto enorme sulla, come dicevi te, sulla cartografia rinascimentale, tanto che il geografo Gerardo Mercatore la inserì nel primo, diciamo, nel primo mappamondo moderno del Rinascimento, e per cui questo stesso fatto di essere inseriti in questa mappa di Mercatore ha fatto sì che poi queste isole zeniane, diciamo, in cui viaggiarono i fratelli Zen, poi sono rimaste in tutte le carte successive del 600 e del 700. Ma c'era anche una motivazione economica, cioè non è che questi sono andati, cioè adesso andiamo a scoprire l'America. No, erano mercanti veneziani, avevano capito che il Mediterraneo non bastava più e che Venezia doveva espandere i suoi mercati, e dunque partirono per i mari del nord. L'obiettivo erano i mercati delle Fiandre. Poi una bufera li portò sempre più a nord, finirono alla deriva e arrivarono appunto fino a quei paesi molto più a nord di dove avevano pensato di arrivare. L'obiettivo principale era quello di entrare nel mercato del merluzzo. Ecco, un'altra parte affascinante del libro è l'impatto che queste mappe degli Zen, questo viaggio degli Zen, ha poi avuto sulle spedizioni della regina Elisabetta nel Nuovo Mondo. Assolutamente, e questo è stato forse l'aspetto più affascinante di tutte le mie ricerche. Il libro pubblicato a Venezia con la mappa finì nelle mani di un personaggio straordinario che era John Dee, astrologo, matematico, astronomo, storico e soprattutto consigliere principale della regina Elisabetta I. E lui andò dalla regina dicendo: guardi, ho questo libro per le mani con questa mappa straordinaria, e questa mappa potrebbe essere la nostra guida, farci da guida per attraversare l'Atlantico e cominciare le nostre conquiste, per mettere a freno un po' gli spagnoli e i portoghesi che stavano arraffando tutto l'arraffabile nel 500. E dunque queste mappe saranno inserite in 4 documenti legali e storico-legali che serviranno da base per le spedizioni di Martin Frobisher, che saranno fatte poi nella seconda metà del 500 con l'avallo e il finanziamento della regina Elisabetta. Senti Andrea, ma tu che alla fine che idea ti sei fatto? L'hanno scoperta l'America e i fratelli Zen o no? Ma scoperta, sai Mario, la verità è che c'era un traffico incredibile nel Nord Atlantico dall'Europa al Nord America. I vichinghi andavano avanti, indietro, navi dalla Norvegia partivano, ogni anno dovevano andare come minimo 7 navi in Islanda, in Groenlandia, eccetera. Per cui immagina il traffico che c'era. I veneziani si inserirono in questo traffico, erano semplicemente tra le tante navi che andavano in Nord America. E poi ci sono quelli che dicono che i fratelli Zen arrivarono invece in Nova Scozia e che lì crearono una colonia, tant'è che ancora oggi ci sono 2 grandi monumenti che ricordano i fratelli Zen e il punto esatto dove sono sbarcati. Per cui tu vuoi che il turista americano che io ho incontrato nella biblioteca a Venezia non creda lui che i 2 fratelli Zen abbiano scoperto l'America prima di Colombo? Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Siamo arrivati all'ultima settimana di questa stagione. Interromperemo per il periodo estivo con venerdì, dunque torneremo a settembre. Dunque vi lascio, questa settimana voglio lasciarvi con alcune delle più belle canzoni americane dedicate all'estate. Ogni giorno ne vedremo una. Oggi vi propongo di Janis Joplin, un'interpretazione di Summertime. Summer. Looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. Thank you.